America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Sono venuto appunto a vedere le possibilità che c'erano per quanto riguarda fare il camionista qua, però giustamente come ho trovato, quando uno poi farà la patente dell'automobile qua, deve passare un anno per poi fare quella dei mezzi pesanti. Qual è la sua idea a questo punto? Ma aprirò un business, così mi verrà dato questo, diciamo, visto di lavoro. L'avete sentita? La sorpresa è che il nostro Facchinetti è arrivato in America, era con noi in studio e invece di fare il camionista, per ora forse farà il pizzettaro. Gli hanno detto che per poter venire e prendere la patente speciale per i camionisti ci vuole almeno un anno, mentre invece per acquistare una pizzeria e fare l'imprenditore in America è facilissimo e si può avere anche il visto. Di questa straordinaria avventura di Facchinetti, il camionista che vuole fare il truck driver in America, ne abbiamo parlato ormai in varie occasioni, recentemente ne abbiamo parlato con Vittorio Zucconi, ne abbiamo parlato con il collega Giuseppe Cruciani, quindi con dei colleghi giornalisti, ne abbiamo parlato con il ministro Brunetta, ne abbiamo parlato con Luigi Zingales, professore di economia. Bene, oggi ne parliamo con Roberto Dalimonte, professore di scienze politiche alla LUIS, quindi un politologo che ci potrà forse dare una chiave di lettura diversa. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Premetto, Roberto non è soltanto professore di scienze politiche alla LUIS, ma guida anche un centro studi di analisi elettorali in Italia, è editorialista del nostro giornale, viene spessissimo in America anche per insegnare ed è con noi qua in studio. Allora, voleva fare il camionista, fa il pizzettaro. Un po' di creatività c'è o no? Cosa dici? Beh, certamente, non c'è dubbio. Mi sorprende la cosa perché una volta ero nei professori universitari che venivano in America e poi magari ci restavano. E adesso invece anche un camionista ha scoperto che l'America è una terra di opportunità, come si dice da queste parti. È land of opportunities. È land of opportunity. Ecco, ma non è la prima fuga questa. Se ci penso bene non c'è solo il camionista. Mi viene in mente per esempio quel carabiniere di Chieti che qualche decennio fa ha preso la famiglia e l'ha portata in Canada per dare ai figli delle opportunità che riteneva non ci fossero più nel nostro paese. E questo carabiniere si chiamava Marchionne. Eh beh, certo, Sergio Marchionne, amministratore delegato della Chrysler, della Fiat, insomma straordinaria carriera, è arrivato in America a 13 anni. Esattamente. E quindi ha vissuto questa esperienza americana. Beh, sarebbe interessante sentire Marchionne, che produce i camion con la New Case Holland, cosa pensa di questo camionista che vuole venire a guidare i camion qua. Però anche tu, se non sbaglio, a un certo punto sei venuto da giovane in America. È assolutamente vero. Nel 1965, da studente di nel liceo classico Virgilio di Mantova, da lì mi sono trasferito in America per un anno a Dayton, nell'Ohio, proprio non la Mecca degli Stati Uniti. Quindi nella vera America, nel cuore dell'America, sì. Ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Perché ti ha cambiato la vita? Mi ha cambiato la vita perché prima di trasferirmi lì volevo fare l'ingegnere chimico. Lì, in questo liceo, Kellnell White High School a Dayton, Ohio, ho scoperto le scienze sociali. Ho scoperto che mi piacevano la psicologia, il government, civics, cioè l'educazione civica, che lì veniva fatta veramente, mentre nel mio liceo è una materia residuale fatta dal professore di storia. L'economia, per esempio, mi piaceva moltissimo il corso di economia, quindi ho scoperto le scienze sociali, sono tornato in Italia, mi sono iscritto alla facoltà di scienze politiche a Cesare Alfieri di Firenze. Ecco, ma scusa, un ragazzo di 16 anni? 17. 17 anni, che nel 1965... Sì. Arriva dall'Italia. Come arriva dall'Italia? A Dayton, Ohio. Come, cioè, in nave da Rotterdam. Rotterdam. Ascoltate, non in aereo. Ecco, no, quindi. In nave da Rotterdam, sbarcato a New York, messo su un pullman della Greyhound. Da New York a Dayton. Quindi sì. Un pullman, quindi un viaggio di quante ore? È stato due giorni. Altri tempi. Confermata a Pittsburgh. Quindi la mia prima notte in terra americana è stata a Pittsburgh. Da Pittsburgh a Cincinnati, dove la mia famiglia ospitante mi è venuta a prendere. E da lì è un'esperienza fantastica. scolastica di un anno negli Stati Uniti. Naturalmente, oltre ad aver scoperto le scienze sociali, ho imparato l'inglese perché non sapevo una parola d'inglese. Mm-hmm. Avevo studiato francese al liceo classico Virgilio, quindi la conoscenza d'inglese. Poi, insomma, e dunque questo ragazzo arriva dopo due giorni, dopo una traversata atlantica, 10 giorni di pullman, arriva a Dayton non Ohio. Parla bene l'inglese, Dayton, no, Ohio, no, quello zero l'inglese, parla addirittura zero d'inglese, zero. Ecco, e a quel punto cosa trovi a Dayton? Trovi una famiglia che ti accoglie, esattamente, carini, aperti, come nel programma, sì. Una famiglia splendida con la quale ancora oggi ho rapporti. E andare in classe, a scuola, com'era? Ti guardavano strano? Beh, no, mi guardavano bene, cioè ero il ragazzo che veniva dall'Europa, quindi era una cosa eccitante. È stato un anno straordinario perché ero al centro di tante attenzioni e quindi poi in un paese che anche nel 1965... era un paese molto più libero, più aperto di quello che era l'Italia che avevo lasciato, soprattutto una città come Mantova, splendida città. Ecco, scusa, una domanda. L'aria che respiravi in classe al liceo a Mantova rispetto all'aria che respiravi in questa high school americana, qual è la differenza che ti colpisce di più? Se ma la libertà, il... parlavo poco fa del ricambiamento di studi, di interessi. Ma in America, appena arrivato, i professori che ci portavano, non solo me, a casa, le lezioni continuavano a casa dei professori. Cioè, sì, la mia passione per la scienza politica, per il government, per gli studi politici è nata anche dal fatto che c'era questo giovane professore col quale non soltanto si discuteva in classe, ma si discuteva poi a cena a casa sua. Quindi quest'area di libertà, di discussione, di apertura, non c'erano le gerarchie. Non c'era la formalità, ecco, una delle cose, credo, una delle cose che colpisce è che le nostre sono le aule, si entra in aula, si sta lì fermi, i professori entrano ed escono, sempre sul tuo banco, mentre invece già negli anni 60, esatto, quando impazzava Elvis Presley, American Graffiti era quello, esatto. E sono i ragazzi che si muovono di classe in classe, quindi questo crea più movimento, hanno i loro armadietti dove hanno i loro libri e si muovono nei corridoi, insomma, certo, ci sono, poi c'è non, molto più. Non esisteva la classe, perché in America anche oggi ci sono le classi, cioè tutte, e quindi tu hai la possibilità di incontrare molti più studenti, esatto, puoi far chimica con 30 ragazzi, esatto. E invece fai arte e disegno con altri 27, quindi questo è un elemento di, diciamo, di libertà e di flessibilità che loro già avevano allora, hanno ancora adesso e noi non avevamo. Ma e poi nel mio caso c'è stata una storia incredibile in tanti aspetti, che lì ho conosciuto una ragazza che a quell'epoca aveva 16 anni, che poi molti anni più tardi è diventata mia moglie. Come hai incontrato tua moglie? Alla homecoming dance, quindi siamo nell'autunno, perché c'è ancora questa tradizione della homecoming dance. Quindi il ballo, c'era il ballo iniziale. C'era la festa, il ballo iniziale. Sì. Il ballo iniziale che nelle high school americane si fa per gli studenti che si sono laureati l'anno prima e che ritornano nella loro high school. Prima di andare all'università. Esatto, e quindi l'homecoming, no? Il ballo del ritorno a casa. Ma poi ci siamo visti durante l'anno, abbiamo concluso l'anno con il ballo formale invece del prom, il ballo formale. Il prom, certo, è il ballo conclusivo. In il ballo cui... dei senior. Sì, il ballo dei senior. Sì. Poi i senior scelgono il date, mia moglie era junior. Io ero senior, siamo andati alla prom insieme e poi il caso... Era la tua compagna di danza, insomma. Assolutamente, la tua, sì. Poi la compagna di danza, poi questa prom molto particolare perché fin da Dayton ci trasferimmo a Cincinnati e la prom continuò dopo il ballo su un boat, un love boat sull'Ohio River. Nel 66, quindi immaginiamo... L'Italia, il liceo classico Virgilio di Mantova, no? Una cosa del genere, i ragazzi si incontrano, ragazzi e ragazze, su una nave noleggiata dalla scuola che durante la notte va su e giù sull'Ohio River e dopodiché torniamo a Dayton, facciamo la colazione insieme, quindi tutto il pomeriggio, la notte insieme a colazione, poi si torna a casa. Questo siamo nel 66. 10 anni dopo io mi ritrovo fellow all'Università della California, Berkeley. Mia moglie, quella che diventerà mia moglie, aveva finito i suoi studi in Speech and Language Therapy alla Northwestern University a Evanston in Illinois e aveva preso il suo primo lavoro a San José in California, un'ora a sud di Berkeley. Grazie ai contatti con le vecchie famiglie di origine mia, di origine famiglia ospitante di Dayton, ci siamo rivisti e l'anno dopo ci siamo sposati. Quindi l'America per me ha cambiato tutto. torniamo a Facchinetti. Tu ci hai raccontato, quindi capiamo perché uno come Facchinetti decide di venire qua. Tu però poi sei tornato in Italia. A Facchinetti cosa gli dici? Gli dici di venire comunque in America? Sì, sì. Io dico di restare qui, perché questo è un paese che offre di più. Purtroppo mi spiace dirlo. Insomma, questo è un paese che conosco bene, perché insomma sono qui, ho rapporti con gli Stati Uniti dal 65, perché poi non ho mai smesso questi rapporti, perché ho continuato a venire, ho insegnato a Yale University, ho insegnato a Stanford e così via. E quindi è un paese che conosco bene, e devo dire purtroppo che questo è un paese che, rispetto al nostro, che ancora offre a tanta gente opportunità maggiori. Ecco, rimpiangi di essere rientrato in Italia, di non aver fatto come Facchinetti, visto che tu poi qui c'eri già in fondo? Sì e no, perché poi in fondo io con gli Stati Uniti, ripeto, ho sempre avuto tantissimi rapporti, continuo a venirci, ho passato molti anni, ho vissuto poi molti anni insegnando di qua e di là, quindi come dire, sono riuscito a combinare un po' il meglio del mio paese, perché c'è ovviamente tanto di bello anche nel nostro paese, con il meglio degli Stati Uniti. Però certamente dal punto di vista professionale credo che avrei fatto meglio a restare qui, perché le università americane offrono di nuovo opportunità molto maggiori delle nostre. Quello che vale per il paese vale anche per l'istituzione universitaria. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. A vederlo non si direbbe certo la persona più indicata per scrivere musiche per la Disney, eppure Slash, che è l'ex chitarrista dei Guns N' Roses, ha collaborato alla colonna sonora del film d'animazione Phineas and Ferb, The Movie Across the Second Dimension. E dunque dei Guns N' Roses, November Rain. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.